il demonio appare sotto molte forme. Bello, affascinante, pieno di lusinghe. Ma stasera no, stasera non lo vorrò. Stasera io lo caccerò. Tutto sommato, era un povero diavolo.